me ne vado via, sbattendo poi forte la porta. Il mio cappello dove è molto strano, l'avrò lasciato sudante. Ma come faccio? Che rabbia era nuovo, con quale faccia poi ti busserei dopo che ho detto che non ti avrei cercato per niente al mondo. Non ho bisogno più di te. Potrei voltarmi e rinunciare in fondo. Che cosa vuoi che sia uno stupido grigio cappello? Mi servirebbe tanto, ora fa freddo e non ho voglia di andare. Domando se avrò sbagliato tutto, se è stata colpa mia e non è lui quello che voglio, o se non è una scusa per rivederti ancora, perché ho bisogno.